sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, stanno male, raddoppiano. Ho sempre meno fiato, sempre meno fiato. Oh, apples, fai apples, oh. Bella Bido, by Apple, spacchiamo il culo. Uno, due, tre, tira su le mani, tira su. E vedrai come starai domani. Io mi faccio le serate senza piani, manculi cani. Non si drogano, provano. L'ho detto su sette notti, come siamo ridotti. Da me i sani sono ridotti. Io sono ridotto ai minimi termini. Dicono basta e senza mezzi termini. Ho il cuore con le termiti che non stermini. Con un dai sei bravo. Io non me la cavo, faccio solo la mia musica e ne sono anche schiavo. Che caro, non mi sento completato con questi pezzi. Sto a pezzi, sono troppo complicato. E non venirmi a dire che sono montato. Sono prima a realizzare che non sono realizzato. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, stanno male, raddoppiano. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, sbottano e si sdoppiano. Io ti depisto. Primo, perché ho l'animo nero e il volto di un ragazzino. Secondo, perché sono serio quando racconto. Ma come può uno serio chiamarsi vino? Terzo, perché ti dica uno scherzo. Mi sono ripreso, ma dentro mal preso. Sei arrabbiato? Non è colpa mia. Mi hanno ridisegnato, privo di fantasia. Comunque sia, fino a qui tutto bene. Io volevo una sveltina e mi parli di stare assieme. Fino a qui tutto bene. Ma di tutto quel bene davvero non le palle piene. Io ti riempo di discorsi, io ti riempo di nozioni a cui pensi per sette giorni. Poi ti faccio cuore a tocchi e stai in casa ubriaca e sola per sette notti. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, stanno male, raddoppiano. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, sbottano e si sdoppiano. Bella Bido, by Apple, spacchiamo il culo. Fino a qui tutto bene. Hanno predetto tutto, dimmi che vuoi sapere. Il finale o il giorno della riuscita. C'è solo un'uscita da questa vita. Brrr, sono gelido di ghiaccio e mi tocca scalfire il cuore per raffreddare la vodka. Bella raga si scoppia quando sono così in botta, ho la risata sciocca. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Raga che scoppiano, stanno male, raddoppiano. Ho sempre meno fiato. Un polmone per i beat che girano e l'altro, fin quando girano lo tengo occupato. Bella apples, my apples, spacchiamo il culo.